Capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato». Dio, il Signore, disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio, il Signore, disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai i figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere, e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio, il Signore, disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita.